9 in punto. La versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon martedì 25 di ottobre, Crispino e Crispiniano, questi sono i nomi del calendario liturgico, quindi auguri a chi si chiama Crispino Crispiniano. Il tema della puntata di oggi è, per così dire, l'attesa che si sciolga il dilemma di come l'Italia darà risposta a... non mi piace troppo chiamarlo ultimatum, ma di fatto l'ultimatum che ci è venuto dall'Europa per misure entro domani, entro il secondo round del vertice europeo, chiamato a mettere puntini sugli i sul meccanismo salva stati, su quello salva banche, sulla percentuale di tagli della carta pubblica greca nelle mani delle banche europee. Sono questi i tre punti fondamentali che devono essere sciolti dopo il passaggio al Bundestag dal cancelliere tedesco, e nel frattempo all'Italia domenica è stato consegnato un nuovo elenco dei compiti da svolgere, e in questi compiti da svolgere sappiamo che la riforma delle pensioni di anzianità, l'accelerazione della parificazione tra tetti del trattamento di anzianità e quelli di vecchiaia è uno dei punti fondamentali, un altro è abbattimento dello stock di debito pubblico, e rispetto a questo, sapete, l'annuncio ieri è stato di un consiglio dei ministri che doveva tenersi prima alle 18, poi sempre più tardi. Nel frattempo il confronto diretto tra la presidenza del consiglio e il vertice della Lega, da sempre contraria a mettere mano alla manovra di accelerazione dell'equiparazione tra tetti di anzianità e di vecchiaia, di ora in ora è diventato il vero copione su cui si svolta la giornata. La conclusione in serata è stata quella di un confronto tra componenti del governo, ma non dell'assunzione di decisioni, e anzi l'orientamento prevalente sembra quello di dare una risposta articolata domani in Europa, ma non sulla base di provvedimenti già varati o assunti, bensì sulla base di una specie di agenda contrattata, verificando prima di procedere al varo di nuove manovre, magari poi al valzer di nuove correzioni a cui abbiamo assistito questo agosto, con una perdita di credibilità aggiuntiva prima di identificare quale fosse il punto di caduta vero delle manovre dei saldi. Questa volta, forte dell'esperienza precedente e soprattutto sulla base di un rapporto molto delicato, logorato da una parte per problemi interni della Lega, ma anche molto teso nel dover scegliere davvero se andare avanti con decisione, come chiede l'Europa e come chiedono tante forze economiche da mesi, e la stessa richiesta del documento delle 5 associazioni datoriali del 30 settembre, è la stessa richiesta che tante persone come me da sempre fanno al governo. Ma la Lega non fa marcia indietro, e su questo quindi l'assunzione finale del governo di Palazzo Chigi sarebbe quella di, invece, procedere a strappi, verificare che cosa in Europa alla fine ci dicono sì a voce prima di farla. Ecco. Dall'altra parte, reazioni anche del governo improntate a ciò che sui giornali merita titoli del tipo: nessuno può darci lezioni in Europa. Io su questo non so quanto questo orgoglio poi alla fine sia davvero fondato, perché di fatto noi sapevamo benissimo la piega temporale che avrebbe preso questa partita europea. Chiunque abbia un minimo di cognizione di come si mettono le cose può ritenere che sia giusto o ingiusto questo meccanismo di commissariamento esterno attivato dai paesi virtuosi, ma di fatto questa è la regola dell'Europa dopo che Germania ha messo ordine nei conti pubblici ed è produttiva nella parte privata. Allora, organizziamo questa trasmissione così: a voi che siete a casa il compito di dire se vi aspettate che, per così dire, la passiamo questa volta l'esame europeo sulla base di questo atteggiamento fatto di un misto di prudenza, molta prudenza per non mettere piedi in fallo, perché se ne sono già messi troppi quest'estate, e quindi prima di andare a definire un provvedimento, un round di colloqui su un'agenda in Europa, se secondo voi è una buona idea questa, oppure se siete convinti che è un altro passo verso il logorio, ma è difficile immaginare qualche cosa di buono da questo scenario. Del resto però è anche vero che questo è uno scenario che non promette decomposizioni a breve, perché come abbiamo visto la maggioranza tiene poi in Parlamento, ed è difficile immaginare a questo punto a breve esplosioni a meno che sia la Lega a cambiare marcia e a dire no, andiamo dritti alle elezioni. Ma con i problemi che hanno a casa loro, vi pare che questo sia probabile? A me, devo dire la verità, non troppo, perché al di là del fatto che ogni partito ha i suoi problemi, come ha detto per esempio io l'onorevole Reguzzoni, leghista, invitando a non sopravvalutare troppo i problemi della Lega, però dall'altra parte non siamo stati abituati da anni a vedere il ribollire che si è visto recentemente anche in occasioni congressuali importanti per quel partito come quello di Varese la settimana scorsa. Quindi altri invece ritengono che proprio questa ebollizione all'interno della Lega potrebbe essere una delle ragioni tali da indurre Bossi a dire andiamo al voto e riallineiamo tutti, nel senso che a quel punto tagliamo un po' di teste a casa nostra anche, però con quali prospettive elettorali per la stessa Lega in queste difficoltà, visto che tutti i sondaggi testimoniano che la difficoltà a casa loro è una difficoltà proprio di essere percepiti come incoerenti rispetto a ciò per cui si caratterizzavano. Su questo scenario a me pare che sia difficile immaginare crolli a breve in Parlamento, e quindi a questo punto l'unica è augurarsi, fine del mio pistolotto iniziale, che per chi è convinto che la disciplina da parte dei virtuosi europei sia comunque la maniera in cui funziona il bene e il male questa Europa, la mia idea resta è che è più conveniente darsela da soli senza farsela imporre e che sia la più efficace possibile, cioè quella con minori effetti depressivi sul paese, e tale poi, se uno è bravo politicamente, anche da non perdere il contatto con la propria base elettorale e da rimediare consenso. Devo dire che da questo punto di vista, sotto questi tre punti di vista, la posizione politica dell'Italia è abbastanza incomprensibile, perché appunto se la fa imporre, facendosela imporre, punto numero due, diventa più depressiva quando ti obbligano a farla in maniera tale che da fuori stanno meno attenti alle caratteristiche della tua economia, e terzo vai anche nei guai col tuo elettorato e quindi ti metti sempre peggio nella prospettiva. Ma queste sono le considerazioni di un modesto giornalista. In questa prima parte della trasmissione abbiamo con noi per il PDL l'onorevole Maurizio Gasparri. Buongiorno e grazie. Allora, come spiegare a chi è a casa l'atteggiamento di preferire un'agenda a dei provvedimenti? Prudenza oppure diffidenza anche nei confronti di chi ci ha riso in faccia? E la reazione di molti italiani è stata, insomma, sta risata, Sarkozy se la poteva risparmiare. Lei che dice? Guardi, io stavo consultando un'analisi di un giornale autorevole come Sole 24 Ore a firma di Adriana Cerretelli, che oggi in un articolo che dalla prima pagina poi prosegue ampiamente a pagina 21 evidenzia alcuni conti francesi problematici per quel paese. Noi puntiamo all'azzeramento del deficit nel 2013 con le manovre che abbiamo già realizzato nel corso dell'estate. La Francia non è in grado di arrivare all'azzeramento del deficit. Si dirà, ma allora hanno un debito pubblico meno ingombrante e devastante del nostro. Mi sembra che però anche le loro banche siano molto esposte nei confronti della Grecia. E quindi la situazione qual è? E che qui tutti fanno i maestri degli altri, ma poi non tengono conto dei problemi interni, o meglio, non è che non ne tengano conto, sanno benissimo di averli, ma tendono poi a scaricare le loro tensioni sui problemi altrui. La Germania è in un contesto in cui la Merkel deve fare i conti day by day, giorno per giorno, col suo Parlamento, col Bundestag, che la autorizza in via preventiva a fare questa o quella scelta. Quindi è chiaro che c'è una crisi che investe tutto il sistema europeo, che richiede coesione. Certo, l'Italia si deve assumere le sue responsabilità, non possiamo fare quello che fanno gli altri, scaricare all'esterno scelte, responsabilità. La questione previdenza oramai ha assunto un valore emblematico, non solo per il suo significato economico, ma per la sua rilevanza strutturale. Io temo che la Lega e altri guardino più a orizzonti che sono di consenso, con orizzonti elettorali, e quindi siano molto freddi, almeno così è stato in queste ore, su un'ipotesi di riforma. Mi chiedo se poi dovessero governare quelli che ci fanno critiche in Italia dalla sera alla mattina, cosa accadrebbe, perché sul fronte della riforma previdenziale, se qualcuno nel terzo polo fa aperture, la sinistra nel PD vede prevalere un atteggiamento di totale chiusura, e se si va ancora più a sinistra di totale ostilità. Quindi io mi auguro che ci sia, insomma, uno scatto in queste ore che faccia capire a tutti, nella maggioranza e anche nel Parlamento più in generale, che la riforma pensionistica è un aspetto strutturale, è un aspetto che deve essere assolutamente affrontato. La Lega, quando siamo stati al governo nel 2001, dal 2001 al 2006, con il ministro Maroni, fu protagonista di una riforma importante, che poi il governo Prodi destrutturò e cancellò. E quindi su questa vicenda della previdenza, il giallo ha molti colpevoli ben individuati. Il governo Prodi che fa l'europeista, l'uomo saggio che adesso rispunta, ha guidato un governo che ha cancellato il famoso scalone. La Lega a sua volta ha condiviso una riforma in quegli anni, quindi io credo che chi fece riforme riprenda la via del buonsenso riformista in materia di pensioni, e chi ha destrutturato riforme si assuma le sue responsabilità davanti al Paese, non basta la faccia di un apparente saggio Enrico Letta, non so di chi, per cancellare tutto questo. Poi voglio anche dire che le misure poi ulteriori che il governo sta mettendo a punto sul piano fiscale, sul piano della semplificazione, sul piano delle infrastrutture, sono misure importanti, quindi anche i giudici europei noi li dobbiamo per carità rispettare, ma mi pare che cattedratici illuminati se ne vedano pochi in circolazione in Europa. Se lei dovesse immaginare, rimaniamo un secondo sul rapporto con la Lega, fino a questo momento il rapporto con la Lega, quando si è teso, è capitato, come capita tra le altre, ma è capitato con più intensità man mano che crescevano le difficoltà nella percezione dei sondaggi della maggioranza, alla fine Berlusconi si è dimostrato un capo coalizione capace anche di piegarsi, di diventare concavo convesso a seconda delle circostanze. Capita con la Lega che quando si impunta bisogna farlo con più, diciamo, predisposizione francescana al dialogo. Nella Lega, secondo lei, da quello che ha capito su questo punto delle pensioni di anzianità che loro difendono nel meccanismo attuale, cioè vogliono che rimanga graduale nella maturazione dei diritti, così come è avvenuto oggi, che cos'è l'atteggiamento che è prevalso secondo lei? Il fatto che quando con Maroni proposero che da le ore 00 di una mezzanotte c'era lo scatto addirittura di 3 anni di tetto che saliva, sono stati poi additati come i cattivi rispetto a coloro che maturavano il diritto, quindi all'epoca hanno pagato un costo elettorale, oppure quello che bisogna mettere in atto secondo lei nei loro confronti da parte di Berlusconi che tenta di convincerli è una semplice esercizio di matematica? È vero che ogni anno ci sono circa 200.000 italiani che maturano quel diritto con quella gradualità ogni anno come quella oggi stabilita, però dall'altra parte bisogna mettere nella colonna milioni di italiani rispetto ai quali quei 200.000 vengono percepiti come gente che va ancora in pensione troppo presto e con un trattamento che non sarà quello riservato alle generazioni successive. Secondo lei è perché hanno preso la botta allora, oppure perché c'è ancora un problema di comprensione di come funziona la meccanica dei consensi, per così dire, su questo tema, tra chi è più a pensarla che bisognerebbe lavorarsi di più, chi già lavora, perché quello non leva un euro di pensione a nessun pensionato italiano a fare lavorare di più già chi oggi lavora. Qual è secondo lei il meccanismo per cui la Lega tiene i piedi così puntati? Intanto, ha ragione lei, va ribadito, perché sembra scontato, ma non lo è, che ciò di cui si parla riguarda coloro che andranno in pensione, perché a volte il primo ostacolo che noi politici, quando dobbiamo parlare con la gente, cosa che doverosamente facciamo ogni giorno, è spiegare che chi già sta in pensione nulla vede toccato. Sì, sì, l'accusa è picchiate i pensionati che sono già deboli, insomma. E invece questo, come lei sa meglio di me, esperto della materia, non è un problema reale, non c'è nessuna misura che riguardi chi sia già in pensione. Quando si parla con un esponente della Lega significativo, ti fanno classicamente un esempio. Al nord, anziché a differenza di in altre aree del paese, può capitare ancora, per fortuna, che un giovane inizi a lavorare, casomai in un'azienda siderurgica, in impianti industriali dove la prestazione lavorativa è pesante. Uno può iniziare anche a 18-19 anni a lavorare, perché c'è ancora una possibilità di accesso al mercato del lavoro migliore di altre aree del paese dove casomai si resta a lungo in lista d'attesa e si inizia a lavorare più tardi non per una scelta, ma ahimè per una più difficile condizione sociale ed economica di altri territori. Allora questo operaio siderurgico che sta in Lombardia e che va a lavorare a 18-19 anni, dopo 40 anni, cioè 58-59 anni, è giusto o no continuare a farlo lavorare? Questo è l'esempio che viene fatto, quindi le rispondo con un argomento molto concreto. È chiaro che uno poi dice, ma dopo 40 anni in fonderia questo lavoratore è stanco, esausto, sicuramente lo è, perché lo facciamo lavorare ancora ulteriormente? Si potrebbe qui distinguere, discettare i lavori usuranti, quali sono, quali non sono, allargare la categoria di lavori usuranti che prevedono, come dire, un più limitato, no, prolungamento dell'età pensionabile. Tuttavia questo è l'esempio che loro fanno. Poi in una fase in cui, prendiamoci chiaro Giannino, chiunque sta al governo nel mondo paga un dazio in termini di consenso, da Obama alla Merkel, e da Sarkozy che ride, ma io mi auguro, perché se fossi francese voterei Sarkozy, che possa ridere anche nella prossima primavera quando ci saranno le presidenziali in Francia e lo scontro Sarkozy-Hollande. Io non dico ride bene chi ride ultimo, perché, ripeto, io sono di centrodestra, faccio parte del Partito Popolare Europeo, come il partito di Sarkozy, l'UMP, e se fossi francese mi batterei per la rielezione di Sarkozy. Però, insomma, Sarkozy ha un contesto economico complesso, rischia di perdere la AAA, è esposto al sistema francese, come dicevo prima, con la Grecia, ha un deficit che nel 2013 sarà molto più alto di quello italiano, che noi contiamo di azzerare, insomma, non c'è molto da ridere. E allora io credo che la Lega sia preoccupata, come tutti, che stando in un'area di maggioranza e di governo, chi governa fa scelte difficili in questi anni, in America, in Francia, in Germania, ovunque, e poi prende, come dire, si assume le conseguenze di queste scelte. Quindi io credo che sia un mix di preoccupazioni sulla tenuta del consenso e la valutazione che le ho fatto sull'esempio del lavoratore padano che dopo 40 anni di fonderia aspira alla pensione. Io credo che su questo si possa e si debba discutere, su meccanismi progressivi, su quello che si vuole. Tuttavia il tema è ineludibile, e lei faccia caso a una cosa: nel 94, quando ci fu il primo governo Berlusconi, il governo poi cadde, a mio avviso, perché l'attacco ingiustificato dalla magistratura creò una destabilizzazione, Berlusconi, l'avviso di garanzia a Napoli, poi per una vicenda giudiziaria che si dissolse. Tuttavia, anche allora il tema delle pensioni fece capolino, come lei ricorderà. E mi ricordo ancora, come adesso quando i Montezemolo o altri dicono: ma che belli gli indignati, come sono simpatici. Ancora mi ricordo delle dichiarazioni di Agnelli, che furono riportate soprattutto da Repubblica con grande evidenza, che di fronte agli scioperi, alle proteste contro la riforma delle pensioni che il primo governo Berlusconi tentava, Agnelli descriveva in maniera positiva: che belle manifestazioni, il ruolo del sindacato, per carità, tutti rispettiamo le manifestazioni e il ruolo del sindacato, ci mancherebbe. Ma Agnelli un po' decantava queste realtà, come che insomma il fronte imprenditoriale poi non avesse il coraggio di sostenere l'azione del governo, anche in questi mesi, guardi un po', articolo 8 della manovra estiva, nuove regole sul mercato del lavoro, chi corre a fare l'accordo con la CGIL, lo sa chi è corso, no? Mica il governo, rispettando ovviamente la CGIL che rappresenta una parte del mondo del lavoro, è andata la Confindustria e la Marcegaglia, ha depotenziato meno la manovra, non lo so, così è stato interpretato. Qui, caro Giannino, c'è una massa di liberali per conto terzi, di rigoristi per conto terzi, che auspicano il liberismo e il rigore degli altri, ma poi si vanno a cautelare con la firma della CGIL o ai tempi del 94 con Agnelli, parlo dell'indimenticato Gianni Agnelli, e decantava le manifestazioni di protesta della CGIL. Poi arrivò il governo Dini che fece una riforma, poi nel 2001, l'ho già ricordato, l'altro governo Berlusconi, con Maroni ministro del welfare, fece una riforma allo scalone e quant'altro che lei prima ricordava. Insomma, questo tema qualcuno pensa che possa essere eluso, ma se dopo domani, no, facciamo gli scongiuri, c'è il governo X, il governo Giannino, il governo non so, il governo Gasparri, facciamo, no, questo è fuori dal novero delle possibilità, per i miei limiti, ho la consapevolezza dei miei limiti. Allora dico, pensa qualcuno che si possa eludere questa questione? Lo dico al Partito Democratico, che è inutile che manda in una scoperta Letta al Quirinale giocando sul cognome, perché poi non è Letta quello, come dire, che sta a Palazzo Chigi, si chiama Enrico, e sta in un partito dove sulla riforma del, facciamo uno scenario fantascientifico, domani sorge un governo appoggiato dal PD, è in grado di fare una riforma di questo tipo, è in grado di dare le risposte all'Europa, è in grado di sintonizzarsi, non dico con tutta, ma con buona parte della mitica lettera della Banca Centrale Europea. Allora anche la Lega, io penso e spero che rifletta su questo, e altrimenti poi si va uno scenario di rottura, cosa porta? Francamente non lo so, il paese non ha bisogno di elezioni in questo momento, ha bisogno di scelte, ma poi se andasse alle elezioni in quale contesto, con quale alleanze, con quale aggregazioni, con quali programmi? Dice, ma lei lo dice per il centrodestra, perché il centrosinistra, la foto di Vasto con Vendola, Bersani e con gli altri, con Vendola che deve giustificarsi nelle interviste che non è vero che lui promette seggi a quelli dei cosiddetti centri sociali che sono alla fermata prima di quelli che poi fanno in piazza quello che fanno. Insomma, non credo che questo rassicurerebbe l'Europa, ecco, ed allora io sono preoccupato come tutti, perché poi Sarkozy sorride, ma può darsi che poi tra qualche mese siano altri. Ha detto Sarkozy: abbiamo rapporti con le istituzioni, ha ragione, vale anche per noi, perché le istituzioni restano, i governi passano, e anche in Francia, la Francia ci sarà tra qualche mese. Io mi auguro che ci sia anche Sarkozy all'Eliseo, ma di questo nessuno è certo. La Merkel, tutte le varie elezioni locali, le ha perse, ed è in una situazione in cui il Bundestag la chiama a rapporto per autorizzarla passo dopo passo, è anche una cosa in fondo corretta. Allora io dico alla Lega, dobbiamo assumerci questa responsabilità sul fronte della previdenza. Le altre misure che il governo ha predisposto sono misure apprezzabili, misure importanti, non tutte miracolose, perché poi hanno anche ragione quelli che dicono bastasse un comma per invertire la rotta dei cicli economici mondiali, ma lei pensa che non l'avrebbe già fatto qualcuno nel mondo e non avrebbe passato il compito al compagno di banco dicendo guarda, questa è la formula magica per cui lo sviluppo riparte, non c'è anche nel pianeta una distribuzione diversa delle ricchezze, la concorrenza spesso sleale di altre piattaforme continentali in Cina, non ci sono norme sulla sicurezza del lavoro, come funziona la previdenza e chi lo sa, licenziano, assumono, inquinano e poi producono a basso prezzo, e anche quelli che ci fanno la morale in Italia spesso delocalizzano verso altre aree del pianeta e poi ci spiegano le cose devono fare, intanto loro i loro prodotti in buona parte li fanno dove? Altro che articolo 8 della manovra, cioè quello che noi non vogliamo, lo sfruttamento del prossimo, la devastazione del pianeta. Insomma, tempi difficili, che richiedono scelte coraggiose. Vedo, il mio consiglio, non richiesto, ma comunque il mio consiglio per centrodestra è a quello, a, come dire, a non sentirsi con tutti quanti addosso con motivi pretestuosi. Cioè, voglio dire, gli imprenditori, è chiaro che vogliono un paese dove potenzialmente si metterebbero la firma sul fatto di avere meno tasse, una migliore amministrazione, e quando vedono che queste cose non arrivano tendono a criticare. Questo che cosa significa? Significa che vogliono andare al governo, ma io non credo, poi qualcuno di loro potrà avere tentazioni personali. Per esempio, regalare all'opposizione tutta Confindustria, descrivendola come quella che ha fatto l'accordo con la CGIL, quando poi Confindustria ha rotto con loro 2 anni e mezzo fa per fare le deroghe contrattuali, e poi la CGIL per arrivare al sì si è dovuta spaccare, ha dovuto votare sì a Gugliasco. Questo consiglio non richiesto al centrodestra, io me lo eviterei, però capisco che non è molto facile trovarsi in questa condizione, non è molto facile anche perché io immagino tutti gli esponenti del centrodestra che hanno esperienza politica non possono toccare un tasto delicato. Il tasto delicato è che poi in larga misura le difficoltà vengono da difficoltà che riguardano il Premier in prima persona più che la coalizione. La coalizione ha vissuto le difficoltà prodotte dal Premier e dalla sua leadership nel paese, nella propria base elettorale, e questo è un punto delicato perché questo complica dannatamente, secondo me, la possibilità poi per il governo di essere efficace. Comunque l'onorevole Gasparri ci ha dato una visione, per così dire, realistica e disincantata del fatto che miracoli è meglio non aspettarsene, meglio un'agenda contrattata che provvedimenti che vengono iniziati a fare a pezzi come inadeguati e inefficienti prima ancora di essere portate all'attenzione europea, e vediamo se sulla linea di questa prudenza si riesce a convincere anche la Lega, visto che in passato è stata proprio lei a dare il nome con un proprio esponente alla riforma delle pensioni. La mia personale opinione, e ho concluso i consigli non richiesti al centrodestra, è che su questa cosa delle pensioni quantomeno l'analogo meccanismo dei 3 in 1 del Maroni bisognerebbe approfittare del fatto che in casa loro c'è un problema. Dopodiché, ripeto, siccome qui le elezioni mi pare che non le voglia nessuno, non so se sia un bene, ma intanto mi pare una considerazione oggettiva, e beh, almeno la Lega provi anche un po' ogni tanto di scudiscio sulle proprie spalle, visto che di solito è prodiga nel darlo su quelle altrui. Pubblicità. 9 in punto. La versione di Oscar. Eccoci tornati in studio, e ai consigli non richiesti di Giannino c'è una chiosa ancora dell'onorevole Gasparri, prego. La ringrazio, volevo dire, nessuno vuole regalare la Confindustria alla CGIL alla sinistra, dico solo che in alcuni passaggi, Giannino, molti invocano coraggio e poi ne hanno meno di quello che chiedono agli altri. Del resto, come Don Abbondio insegnava, il coraggio uno poi non se lo può dare se non ce l'ha. Noi dobbiamo averlo in questa fase, però non voglio polemizzare, ho ricordato i fatti storici di Agnelli, di altri, c'è sempre. E anche giorni fa mi ha un po' sorpreso, no? Quando Montezemolo diceva, questi indignati come sono simpatici, se fosse andato in mezzo a loro avrebbe potuto casomai constatare cosa viceversa loro pensavano di lui. Detto ciò, noi dobbiamo assumerci questa responsabilità, e la Lega quantomeno alla riforma Maroni di quel governo precedente dovrebbe tornare, anche se taluni dicono che non sarebbe sufficiente, ma sarebbe già un risultato importante. Io me lo auguro, opero in questa direzione e comunque noi ci dobbiamo assumere la responsabilità davanti al paese di dire questa cosa. E se poi non ci sono le condizioni per agire, chi sarà al contrario si assumerà una responsabilità più grande della nostra, comprese le opposizioni di sinistra, che capisco lucrano sulle difficoltà di chi governa, ma poi questo tema non è che può sparire dall'agenda italiana ed europea. Allora, grazie a onorevole Gasparri. Ora il controcanto, però, perché per l'opposizione abbiamo chiamato per il PD Nicola Latorre, e a Nicola Latorre chiederei, oltre a un giudizio su questa strategia seguita dal governo, invece di varare provvedimenti e portare un'agenda in Europa, anche di entrare subito nel vivo del classico argomento che è quello stato che è stato utilizzato anche da onorevole Gasparri, cioè dire sì, noi saremo divisi, avremo fatto non al meglio, tutti ci danno lezioni facilmente di come si potrebbe fare di più, però ricordiamoci che l'opposizione, se si trattasse di eseguire lei al nostro posto la lettera della BCE, dalle pensioni all'abbattimento di una quota considerevole dello stock di debito pubblico a un ulteriore giro di credibilità sui saldi pubblici da azzerare al 2013, beh, in realtà, al di là delle chiacchiere, sarebbe in difficoltà ancora maggiore delle nostre, visto che, per esempio, bastava ascoltare ieri sera onorevole Di Pietro a Porta a Porta per sentirgli dire, beh sì, la riforma delle pensioni non è proprio in cima alle cose che faremo noi, e così via. Quindi da questo punto di vista, dice Gasparri, ma dice una parte dell'opposizione, noi saremo pieni di difetti, l'opposizione è ancora più lontana da noi dallo spirito di ciò che ci chiede l'Europa. Nella realtà non esiste in questo Parlamento una maggioranza diversa dall'attuale, migliore dell'attuale, capace di stare su questi punti secondo quello che chiedono i mercati, coi tempi che chiedono i mercati, la credibilità e l'efficacia che chiedono i mercati. Conclusione, qualcuno vuole andare a votare? No, e quindi vi tocca beccarvi chi c'è con tutti i suoi limiti. Dove questo ragionamento ha qualche falla e dove imbarca acqua, secondo lei, Latorre? Buongiorno a lei e ai radioascoltatori. Innanzitutto, l'unica riforma delle pensioni che è stata fatta in Italia l'ha fatta il centrosinistra. E noi oggi potremmo tranquillamente accelerare il superamento della fase di transizione previsto nella riforma che il centrosinistra fece con il governo Dini nel 95, per poter già rispondere in gran parte alle esigenze che ci vengono poste dall'Unione Europea. C'è poi il problema dell'aumento dell'età pensionabile, che nell'ipotesi Dini, sostenuta dal centrosinistra, lavorava su una fascia di età che oggi potrebbe essere ripensata, posto l'aumento della media di vita, degli anni di vita media che vengono che si sono raggiunti in questa fase. Dunque, l'unica riforma delle pensioni è stata fatta dal centrosinistra. Quella dello scalone di Maroni non era una riforma delle pensioni, era un intervento che riguardava peraltro una fascia minima lavoratori e che secondo me è stato un errore cancellare, anche se sostanzialmente una misura profondamente iniqua, anche perché si misurava sull'orario della data di nascita, diciamo, e non lasciava nessun margine. Comunque il centrosinistra sbagliò, così come ha commesso anche altri errori in quel periodo, a cancellare quel provvedimento, perché questo schema secondo il quale ogni governo che arriva deve cancellare tutto quello che il governo precedente ha fatto, noi sappiamo che è uno schema che ha prodotto molti danni Nel corso della storia del nostro paese. Detto questo, insisto, il centrosinistra non è l'unica coalizione che ha affrontato questo tema delle pensioni, e oggi il centrosinistra, anche nello schema di Vasto, che naturalmente è uno schema insufficiente secondo, come è noto, le posizioni del Partito Democratico, anche nello schema di Vasto sarebbe in condizioni di affrontare questa fase con assoluta determinazione e con anche una convergenza su alcuni punti essenziali, compreso il modo di affrontare la questione delle pensioni. Guardi, il tema della riforma delle pensioni, c'è non però come un'esigenza di fare cassa, c'è come uno dei capitoli fondamentali per riorganizzare il sistema di welfare nel nostro paese, che oggi è un sistema che garantisce soltanto una parte del mondo del lavoro e una parte della società e non tiene conto di tutta un'altra parte del mondo del lavoro che è così profondamente cambiato. Così come noi ci dobbiamo porre il problema di come garantire la pensione ai nostri giovani che oggi, entrando in un mercato del lavoro in forma flessibile, sono dei potenziali poveri per il modo in cui è concepito tutto l'assetto contributivo. Ora, detto questo, quello che sta accadendo in queste ore è semplicemente un'ulteriore conferma. Io ora comprendo i motivi di una polemica politica, ora naturalmente il centrodestra non sa più che pesci prendere, si arrampica sugli specchi e si è tuffato su questo argomento del non esiste un'alternativa, cosa che devo dire affascina anche molti commentatori e che è diventata, diciamo, una delle letterature preferite in questo periodo. Diventa anche una specie di giustificazione, allo status quo. Cioè, no? Esattamente. Guardi che noi non abbiamo soltanto una sostanziale incompatibilità tra le forze politiche che oggi governano questo paese sui temi dell'economia, ma noi abbiamo una clamorosa divisione sui temi della politica estera. Ma lei lo sa che per tutto questo mese i nostri militari sono stati in Libia senza una copertura né costituzionale né economica, perché la Lega è stata sempre contraria alla nostra presenza in Libia, ma potremmo dire su tutta un'altra serie di questioni che riguardano le politiche estere, altro che Turigliatto e Rifondazione Comunista. Dunque noi abbiamo un grave problema politico, cioè non abbiamo un governo che è in grado, e una maggioranza che è in grado di affrontare nessuno dei problemi che noi abbiamo di fronte. Tra l'altro, presi comprensibilmente da questa vicenda delle pensioni, così come è stata posta all'indomani di questo vertice, noi stiamo continuando a trascurare il vero grande tema che abbiamo, che è quello della crescita. Noi non abbiamo ancora capito in quale direzione si vuole andare, sentiamo anticipazioni confuse di un decreto sviluppo nel quale tra pagelle online ed elenchi di condoni di tutto si parla meno che di come sostenere la crescita, che poi, come lei sa e come più volte lei stesso ha sottolineato in tante occasioni, è la questione fondamentale su cui si misura la nostra credibilità sui mercati, e cioè quali prospettive di crescita, anche perché, come è noto, la priorità vera di questo paese in questo momento è certamente quella di abbattere il debito, ma è l'altra faccia della medaglia questo. Il tema fondamentale è come si ridà una prospettiva all'economia del paese, come si affronta il tema drammatico del lavoro in questo paese. Questi sono i temi e su questo, guardi, ne potremo discutere. Il centrosinistra è oggi già, nonostante posizioni articolate, saremmo ipocriti se non dicessimo queste, ma è già nelle condizioni di produrre una sintesi ed una proposta molto più efficace e determinata, tra l'altro ispirata ad una responsabilità fondamentale, che è quella di come si porta il paese fuori da questa situazione e come si restituisce credibilità all'Italia. Come si restituisce credibilità all'Italia? Io mi sono sentito umiliato da quella indecente e indegna atteggiamento avuto da Merkel e Sarkozy in quella occasione. Io avrei, se fossi stato un giornalista, avrei pubblicato quella fotografia con il titolo "C'è poco da ridere". C'è poco da ridere sia per come noi siamo messi nel rapporto con l'Europa, ma c'è poco da ridere anche per come questi signori stanno guidando l'Europa verso lo sfascio definitivo. Devo dire che condivido, perché in realtà non, se critichiamo atteggiamenti, e ce ne sono tanti, troppi in questi anni, non all'altezza della politica italiana, di chi ha guidato il governo nel suo stile eccetera, questo non ci deve esimere, anzi ci deve rendere ancora più acuti nel notare che in realtà di errori e scivoloni e intollerabili leggerezze, e beh, ce ne sono, e anche di gravi e rilevanti, in chi guida l'Europa ha responsabilità maggiori, perché è dal suo atteggiamento, anche dal modo in cui si risponde a domande in circostanze ufficiali come sono le conferenze stampa, è di lì che si trasmette a qualunque cittadino europeo largamente scettico rispetto ai sacrifici che vengono loro richiesti da un'Europa lontana di tecnici eccetera, eccetera, e che invece bisogna difendere, radicare, perché è convenienza comune di tutti noi fare così. Se un politico si risponde in quel modo, secondo me, anche a mio giudizio, dà una pessima prova, una pessima mano all'idea di Europa, che oggi è lontana dal cuore della gente, molto lontana. Consiglio non richiesto, su cui poi tornerò con la Torre dopo il minuto che adesso parte per l'informazione stradale. Attenzione centrosinistra, perché io temo di capire in questi giorni, più mi arrivano particolari dei provvedimenti di sanatoria fiscale allo studio nel centrodestra, più capisco che è una manovra di aggiramento molto seria politica. Attenzione, allarme per il centrosinistra, perché visto che loro pensano a integrare la dichiarazione degli anni pregressi, a regolarizzare le scritture contabili pendenti per le società, a un maxi accertamento con adesione su proposta degli uffici dell'amministrazione tributaria, e qui c'è uno zampino di gente dell'amministrazione tributaria dentro che pensa che sia utile anche l'amministrazione tributaria fare così, pensano a mettere in regola i ritardati o gli omessi versamenti per una batteria molto ampia di adempimenti, da il canone televisivo a tutte le tasse locali, e qui c'è un contenzioso infinito di cartelle esattoriali che potrebbero sparire. Pensano a meccanismi di definizione delle lite fiscali pendenti e alla definizione di importi non versati con rottamazione dei ruoli di massa. Allora, allarme per il centrosinistra. Se questa cosa è così ampiamente congegnata, e mediamente mi sembra questa volta con capacità tecniche notevole, ci sono messe teste fini nel centrodestra e anche l'amministrazione tributaria, attenzione, perché per il centrosinistra il dire di fronte a questo noi condoni, noi condoni, noi condoni, però corre il rischio di apparire a milioni di italiani come una roba... Io ho capito, no, i condoni, ma qui è un'altra cosa. Io mi libero del contenzioso, e anche lo Stato si libera del contenzioso. Allarme, vedremo come ne pensa l'onorevole della Torre. Strade 9 in punto, la versione di Oscar. Eccoci tornati qui rapidamente, prima delle conclusioni con l'onorevole della Torre, qualche telefonata di ascoltatore. Cominciamo con Otello. Otello che ci chiama da Grosseto. Prego, Otello. Buongiorno a tutti. Io volevo dire una cosa semplice. Io prendo 750 euro al mese per 13 di pensione e con un po' di sacrificio ce la facciamo arrivare in fondo. Non vedo perché non si debba intervenire sulle pensioni scempio, quelle da 500.000 euro all'anno. Lì, ecco, i nostri parlamentari dovrebbero partorire una legge che stabilisca una quota minima, perché quando si invecchia, io glielo dico che ho 68 anni, le esigenze diminuiscono, quindi non ci abbiamo grandi necessità di sfarzi, di lussi o di altre cose, quindi è lì che dobbiamo intervenire. Comunque, capisco, Otello, però guardi, questa è una questione, diciamo così, di equità. In realtà, se vai a vedere sul totale del montante di trattamenti che paga lo Stato l'anno, il problema della mega pensione è un problema di distribuzione, che però non risolverebbe la faccenda di fondo, che invece l'accelerazione dell'equiparazione tetti anzianità vecchiaia consentirebbe di risolvere. L'accelerazione è molto rapida, quando dico molto rapida significa entro l'arco di un biennio dell'equiparazione dei tetti, e consentirebbe quasi 40 miliardi di euro di migliori saldi e 40 miliardi di euro di spese nette in meno, capisce? Questo è l'ordine di grandezza comparabile. Ovviamente, Otello, io capisco però quello che lei dice, c'è una questione di equità comparativa. Mariano da Torino, prego Mariano. Allora sì, buongiorno. Io volevo semplicemente dire questo a proposito del tema pensioni. A mio avviso, mi corregga se sbaglio, dottor Giannino, ad oggi le pensioni in essere, il monte delle pensioni in essere ha bisogno, per essere pagato integralmente, di circa 70 miliardi che si prendono dalla fiscalità generale. Corretto. È giusto? Corretto. Quindi vuol dire che il monte dei contributi non basta assolutamente. Allora, il problema, per carità, sarà domani. Monte dei contributi non basta, e per dirla un'altra, anche il classico argomento, la separazione pensione assistenza, non è tale da azzerare il contributo alla fiscalità generale, che nel prossimo triennio aumenta, passa dai 70 miliardi che lei dice, 72 eccetera, del 2010 a 100 miliardi nel 2014, punto. Prego. Allora, a fronte di questo, è ovvio, bisogna intervenire anche in una prospettiva futura, e questo mi si consenta di dire, bisognava farlo anche con molto anticipo. Il problema è che il solito discorso, una classe politica assolutamente inetta, inadeguata, incapace, insomma, di vedere oltre il problema. E nella chiave futura lei che dice? Allora, per la chiave futura teniamo veramente d'occhio la curva demografica, ma senza farci prendere anche qui da impeti. Mariano, vede, infatti, tanto è vero quello che dice, senza farsi prendere da impeti, che il Corriere della Sera oggi propone una lettura comparata dell'applicazione graduale di diversi ordinamenti, e secondo questa proiezione, c'è un articolo molto interessante firmato da Federico Fubini, nella realtà poi, una volta messi in atto davvero tutto ciò che è passato in questi anni, l'età media del pensionamento inizierà ad accelerare più rapidamente da noi che in Germania, quella media, non quella ordinamentale, quella media di chi davvero va in pensione. Questa è la tesi dell'articolo Corriere della Sera di oggi, che vi invito a leggere. Onorevole La Torre, che ne pensa della parte fiscale? Non è che poi il no condono, no condono si scontra col fatto che poi per milioni di italiani questa resa, magari di fronte al complesso del contenzioso, appare molto più utile, e ancora una volta gli italiani da una parte poi batteranno le mani e chiederanno al condono, ma dall'altra parte dicono però per fortuna che c'è? Ma guardi, mi pare abbastanza chiaro, certamente con tutte le insidie che lei segnalava, che questa operazione, se arriva alla meta, e bisognerà vedere se il governo trova un'intesa e se Tremonti, dopo averci ricordato ogni giorno, sono le uniche parole che ha detto in questa fase di lungo silenzio, che lui è contrario ad ogni tipo di condono, se si convincerà anche Tremonti sarà la conferma che quella è un'operazione di chi ormai si sente in campagna elettorale, e cioè non è assolutamente funzionale né a quello che ci chiede l'Europa né a quello che serve al nostro paese, ma è un modo per lisciare il pelo ad una parte della società italiana nello spirito e nella convinzione che si è in campagna elettorale. Dunque un provvedimento che non risponde in alcun modo a quelle che sono le esigenze del paese e alle questioni che vengono poste di una domanda non solo di sviluppo e di crescita, ma anche di equità, come si evince anche dalle telefonate che lei ha opportunamente adesso messo in linea, ma risponde soltanto ad una esigenza di tipo elettoralistico, che è la conferma di quanti danni a questo paese questa maggioranza e questo governo sta producendo. Io ringrazio l'onorevole relatore, l'onorevole Gasparri. Ieri mi è sfuggita una frase che è stata poi anche rimbalzata dalla Zanzara, Giuseppe Cruciani e Davide Parenzo, quando ho detto le nostre idee, pensavo, parlavo a nome dei liberali antistatalisti che vogliono un equilibrio e più crescita con meno spesa pubblica e meno tasse, ciò che il centrodestra prometteva poi non ha fatto, e a un certo punto ieri mi è fuggito di dire le nostre idee sopravviveranno alle loro cazzate, intendevo quelle del governo. Ebbene sì, lo ripeto anche oggi, se vi aspettate che io faccia una parinodia, una marcia indietro, io penso che chi ragiona come il modesto che non fa politica sottoscritto qui, come tanti dei nostri ascoltatori, come gli imprenditori che chiedono più crescita eccetera eccetera, devono ricordarsi che qualcuno forse domani più credibilmente potrà fare ciò che questi avevano promesso e non hanno fatto, solo se c'è discontinuità rispetto a questo quadro che ci vede nell'angolino col cappello del somaro. Ed è una tesi, è una posizione, quella dell'Italia nell'angolino col cappello del somaro, che non può piacere a tutti coloro, a qualunque sia la loro collocazione nella piramide sociale del lavoro italiano, che si fanno un fondo schiena grande così e che vorrebbero, a questo punto, ha ragione, che come faticano loro e come pagano le tasse loro, come si danno da fare dannatamente loro, accettando l'idea che ci sia chi fa meno di loro, che invece ha molto di più, allo stesso modo vorrebbero vivere in un paese chiamato meno sul banco dei somari a rispondere di ciò che non ha fatto. Grazie a tutti, a domani, Linea Generale Radio. Radio 24. La passione si sente.